But if you feel confident, then continue now with another essential Italian verb. Avere. To have. Avere. Io ho. I have. Io ho. Tu hai. You have, informal. Tu hai. Lei ha. You have, formal. Lei ha. Noi abbiamo. We have. Noi abbiamo. Voi avete. You have, plural. Voi avete.